Ti risin paulinet, si vurivan tanto per che somama par disfet, la mandal monaster, monaster mil gandare, ma poi dopo scappa.